siamo Brian e Bruno, messi insieme siamo sempre la radice di quattro, la radice sulla testa che ci copre con un ombrello, forme nella trascendenza che ci spinge verso il bello. Se non ci fosse ancora stato rintanato in qualche corpo, dentro un cuore, nella cellula, in un atomo raccolto, tu vedresti colorare l'orbito anello di Plutone, sentiresti che da un siglo scoppia il messo gran rumore. Ciao, siamo Brian e Bruno, messi insieme siamo sempre la radice di quattro, la radice sulla testa che ci copre come un ombrello, forme nella trascendenza che ci spinge verso il bello. Siamo sempre la radice di quarce sulla testa che ci copre con un nella trascendenza che ci spinge. Se non ci fosse ancora stato l'intanorpo dentro un cuore, nella cellula in un modo tu vedresti colorare l'oro di ordone, sentiresti che da un siglo scoppia il muore. Ciao, siamo Brian e Bruno, siamo sempre la radice di quarce sulla testa che ci copre con un nella trascendenza che ci spinge verso i Brian e Bruno. Siamo Brian e Bruno, messi insieme siamo sempre la radice di quattro, la radice sulla testa che ci copre come ombrello, forme nella trascendenza che ci spinge verso i bello. Se non ci fosse ancora stato rintanato in qualche corpo, dentro un cuore, nella cellula, in un atomo raccolto, tu lo vedresti colorare l'oro di anello di Plutone, sentiresti che da un siglo scoppia immenso gran rumore. Ciao, siamo Brian e Bruno, messi insieme siamo sempre la radice di quattro, la radice sulla testa che ci copre come ombrello, forme nella trascendenza che ci spinge verso i bello. Se non ci fosse ancora stato rintanato in qualche corpo, dentro un cuore, nella cellula, in Brian and Bruno, Big